1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E allora siamo qui alle 7:21 minuti, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali con voi. Vi ricordo che oggi parleremo di questo clima che c'è sta, di clima sicuramente di anche odio sociale, qualcuno l'ha definito, dopo le manifestazioni di Brescia, ma non è l'unica occasione nella quale ci sono stati scontri di piazza o contestazioni ancora, però li sentiremo anche in audio dalle 8:15. No, la vicenda di Renata Polverini che è andata al ristorante è stata contestata perché mangiava, così Dario Franceschini, così i politici sotto attacco, ricordate anche Stefano Fassino di recente, insomma c'è una tensione sociale sicuramente che si vede e si tocca con mano. Ne vogliamo parlare con due firme prestigiose che spesso sono nostri ospiti, Massimo Fini e Piero Stellino saranno con noi, sarà con noi anche Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera per capire come al Viminale, al Ministero dell'Interno stanno affrontando questi rischi e pericoli. Tutto questo più avanti, ora appunto andiamo a sfogliare i quotidiani in edicola. È martedì 14 maggio, i titoli intanto, Il Sole 24 Ore, debiti, pubblica amministrazione, 30 giorni per pagare, via in commissione al decreto che arriva oggi in aula. Ma la maggior parte dei giornali, oggi i giornali per la verità tutti un po' scritti e pubblicati con la fotocopiatrice, hanno tutte le stesse notizie, sono anche francamente un po' noiosi. Tutti i giornali, dicevo, aprono sulla vicenda della requisitoria di Ilda Boccassini con la richiesta di 6 anni per Berlusconi. Questo è il Corriere della Sera: chiesti 6 anni per Berlusconi, per Repubblica condannate Berlusconi a 6 anni, La Stampa 6 anni per Berlusconi, Il Fatto Quotidiano: Berlusconi, sesso con Ruby, 6 anni e interdetto a vita, Il Secolo XIX, Berlusconi via dalla politica, Il Giornale, condannato a morte, la forca per Berlusconi, Il Messaggero, processo Ruby, scontro finale. Guardate invece il titolo di Libero: processo Ruby, alla Boccassini manca il pistolino fumante. Questo è il titolo di prima pagina. Il Manifesto invece mette la foto della villa di Berlusconi, il titolo è La casa è chiusa. L'Unità, 6 anni di carcere al CAV. Come vedete, le aperture sono tutte uguali su questo tema. Allora, voglio partire dalle ultime notizie riguardanti la follia di Milano di Mada Kabobo, ghanese, 31 anni, che si trova oggi in carcere a San Vittore. Ieri è deceduta, è morto anche una seconda persona colpita a colpi di piccone qualche giorno fa nell'alba di Milano. C'è anche una terza persona che è in gravissime condizioni. Sentivo delle voci cattive, così ho preso il piccone. Questo ha detto, come raccontano Cesare Giuzzi e Gianni Santucci sul Corriere della Sera, pagina 18, il ghanese. Ho dormito in una stazione dei treni, quando mi sono svegliato una voce mi ha detto vai e colpisci. Queste sono le uniche cose, le uniche ammissioni in più che ha detto per giustificare quello che è di ingiustificabile, insomma di quello che ha fatto. Certo, c'è la polemica che tiene ancora banco, per esempio su Libero, ma anche da Avvenire. Voglio leggervi l'editoriale di prima pagina. Su Libero il titolo di qualche giorno fa: squadristi rossi, assassini neri. Quell'assassini neri che allo stesso Giampiero Mughini, collaboratore di Libero, non piace, perché scrive proprio al direttore del quotidiano Maurizio Belpietro dicendo: quel titolo, assassini neri, non va, è rischioso fare distinzioni sul colore della pelle, non tutti gli immigrati sono delinquenti. A proposito di quel titolo, come detto, la prima pagina di Avvenire, che apre su 100 giorni decisivi, quindi la vicenda di governo, è interessante. Vi propongo stralci dell'editoriale di Marina Corradi in prima pagina: il male e la mano. È davvero così rilevante, scrive Corradi, che l'assassino di Niguarda fosse un nero irregolare? In queste settimane le cronache sono state costellate di esplosioni di una follia altrettanto improvvisa e annichilente. Pensiamo alla famiglia pugliese, sterminata da un padre fino a quel giorno ritenuto normalissimo, o alla madre ventenne brutalizzata nel casertano da un convivente geloso. È riduttivo catalogare la tragedia di Milano come legata al cosiddetto fattore clandestinità. Ciò che forse facciamo fatica a ammettere è che l'assassino di Niguarda è semplicemente un uomo e nemmeno tanto diverso da noi da poterlo chiamare mostro. Anni fa, davanti alla casa della strage di Erba, nei primi giorni, si percepiva bene l'ostilità per lo straniero, che certamente aveva massacrato anche un bambino. Quando si seppe che erano stati il Netturbino e la donna delle pulizie che tutti conoscevano, tutti stimavano, su Erba piombò il gelo e nessuno aveva più voglia di dichiarare niente ai cronisti. Il fatto è che il male esiste e non riguarda un'etnia, ma proprio l'uomo. Così racconta di questa vicenda che certo oltre alla tragedia in sé porta dietro vari dibattiti sul colore della pelle di Malakabobo, sul fatto che fosse clandestino, e la polemica continua sui giornali. Prima della pubblicità vi voglio citare una notizia che ho trovato sul secolo XIX, interessante, perché riguarda il mondo del lavoro e un accordo sindacale, che per la verità non è il primo del genere. Le Poste, se te ne vai, assumiamo tuo figlio. In tutta la Liguria succede, saranno tagliate alcune zone cosiddette. E allora ecco la proposta ai sindacati, come racconta Bruno Viani a pagina 17. Se vai via, ti assumo il figlio. La rivoluzione delle Poste passa anche attraverso una proposta che può essere difficile da respingere per un genitore. In questi giorni l'offerta è questa, figlia dell'accordo nazionale dello scorso anno, già collaudata altrove, indirizzata a tutti i 5.000 dipendenti, e sta arrivando ai dipendenti del CMP, cioè il centro meccanizzato di smistamento dell'aeroporto, dove il personale sarà decurtato. Beh, interessante e anche discutibile, nel senso che fa discutere questa proposta. La proposta è questa: se te ne vai e peraltro rinunci a metà del TFR, del trattamento di fine rapporto, quindi rinunci anche a metà dei soldi che ti spetterebbero in situazioni normali, assumiamo tuo figlio. Che ne pensate? Questo è il punto di partenza di questo accordo sindacale di cui parla il secolo XIX a pagina 17. Ora ci fermiamo per la pubblicità e il meteo e poi ripartiamo dalla politica, ma soprattutto dalla richiesta a 6 anni di condanna da Ilda Boccassini. È il tema certamente sul quale aprono tutti i quotidiani. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qua allora alle 7:35 minuti, pronti a continuare la lettura dei giornali, partendo dal processo Ruby. Allora, ieri la requisitoria di Ilda Boccassini, che ha chiesto 6 anni e interdizione perpetua ai pubblici uffici per Silvio Berlusconi, parlando ad Arcole di un sistema prostitutivo con Ruby che si prostituiva. E come racconta la cronaca di Giuseppe Guastella, tutti i giornali fanno un po' un resoconto della requisitoria di Ilda Boccassini, con anche questo lapsus finale nel quale ha detto condanno Silvio Berlusconi e poi, se corretta, chiedo la condanna Silvio Berlusconi a 6 anni. E racconta tra l'altro Luigi Ferrarella, e nell'articolo a pagina 2 del Corriere, a un certo punto ha usato anche un termine sicuramente non aulico: arronzamento, colpevole di arronzamento, così la questura. Non sarà aulico come induzione indebita a dare utilità, ma in bocca al PM napoletano Ilda Boccassini lo spagnolismo del dialetto, evocando l'abborracciare qualcosa fatto male frettolosamente, da corpo a quella che è per la Boccassini l'interferenza di Berlusconi sulla questura di Milano. L'arronzamento della questura, appunto, racconta Luigi Ferrarella. Le reazioni. Berlusconi, racconta Paola Di Caro sul Corriere a pagina 3, è dato ieri sera o ieri pomeriggio dopo la requisitoria, la richiesta 6 anni, amareggiato, furioso, ferito, offeso, così lo descrivono il cavaliere ad Arcole e coi figli, stanco di questo tiro al bersaglio, ma la giustizia e l'esecutivo sono questioni da tenere distinte. Dunque un Berlusconi che privatamente è dato per molto molto arrabbiato, ma i suoi fedelissimi, Bonaiuti, Letta, Alfano, Ghedini, hanno faticato a impedirgli di sfogarsi in diretta TV. Voleva farlo ieri telefonando a Quinta Colonna da Paolo Del Debbio, dove era stata annunciata una telefonata in serata. Lo hanno fatto però e lo hanno convinto a desistere, perché le conseguenze di quello che avrebbe potuto dire sarebbero potute essere di ogni genere, racconta il Corriere, con effetto difficilmente sostenibile per un governo che muove faticosamente i primi passi tra mille difficoltà. E dunque silenzi per il momento, ma silenzi carichi di molta tensione. Questa avrebbe detto, questa per esempio la nota di Berlusconi: non mi è stato possibile ascoltare la requisitoria, ho letto le agenzie, che devo dire? Teoremi, illazioni, forzature, falsità ispirate dal pregiudizio e dall'odio, tutto contro l'evidenza, al di là dell'immaginabile e del ridicolo, ma tutto è consentito sotto lo scudo di una toga. Povera Italia. Questa è la reazione ufficiale di Berlusconi, che poi in tutti i retroscena, anche sul giornale, è dato come un Berlusconi arrabbiatissimo, e l'attacco finale ha ribadito ieri per il giornale: vogliono eliminarmi fisicamente. Anche Giuliano Ferrara parla di paranoia, no, ma forse odio politico, in un piccolo commento che trovate in prima pagina sul Foglio. Se guardate sui manuali di medicina, scrive Ferrara, troverete cose interessanti sulla paranoia o disturbo delirante. Sarebbe però un colpo basso attribuire paranoia a Ilda Boccassini dopo la sua performance di ieri in tribunale a Milano. Ma la sua è tristizia, nel senso di una malinconica propensione a vedere il lato malvagio delle cose, identificarsi con una antropologia negativa fino all'ossessione, frammista a un'evidente misoginia. Così Giuliano Ferrara sul Foglio. Vabbè, e tra i difensori ovviamente anche Alessandro Sallusti, il direttore del giornale, che accusa in prima pagina: così è condannato a morte, una sorta di ergastolo, non potendo chiedere quello fisico, la Boccassini ci prova con quello politico, con la richiesta di interdizione perpetua dai pubblici uffici oltre alla condanna a 6 anni. Anche per Amedeo La Mattina lo sfogo dell'ex premier: sono falsità ispirate dall'odio, ma non avranno la mia testa. Il giorno in cui dovrebbe arrivare la sentenza dei giudici è il 24 giugno, dopo le requisitorie della difesa che inizieranno il 3 giugno. Carmelo Lopapa su Repubblica: l'ira del cavaliere contro la Boccassini, questo è un teorema fondato sull'odio, ma non mi faranno fuori con l'interdizione, vogliono far cadere il governo. Ieri Berlusconi poi ne ha avuto anche per le figlie di Enzo Tortora, Silvia Tortora e Gaia Tortora, si è arrabbiato molto con loro due perché dopo aver citato Tortora, e molti hanno detto ecco il paragone, Berlusconi ha detto non mi sono paragonato per nulla, ma certo ha citato Tortora, le figlie hanno reagito dicendo è una storia completamente diversa, e ieri Berlusconi ha controreagito in maniera molto dura dicendo hanno perso l'occasione le figlie di Tortora di starsene zitte perché io non mi sono assolutamente paragonato al loro padre. Vabbè, ce n'è anche per la gaffa di Ilda Boccassini quando ha parlato di furbizia orientale di Ruby, propria delle sue origini, che tra l'altro non sono orientali visto che è del Marocco. Ma al di là di questo, racconta il secolo XIX, da Karima, furbizia orientale, bufera dopo la gaffe in aula. La comunità araba chiede le scuse, lasciate fuori il nostro mondo da questa vicenda. Si è rimasti molto sorpresi, dice per esempio il presidente del Comai Fouad Audi, molto sorpresi da queste dichiarazioni fuori luogo nei confronti della civiltà araba, del mondo islamico e degli ex comunitari. Tirar fuori la nostra storia, la nostra cultura e religione in questioni che non ci riguardano e di non generalizzare un comportamento singolo di una cittadina araba con tutti gli arabi. La Boccassini, molto apprezzata per la sua competenza, chieda scusa a tutto il mondo arabo. Beh, insomma, adesso questa mi sembra francamente un'azione esagerata. Sta di fatto che il mondo, alcune associazioni arabe si sono arrabbiate per questa gaffa della Boccassini, che ha detto che Ruby aveva una furbizia propria, tipica delle sue origini orientali, mettendo insieme dunque uno strafalcione geografico con anche una, come dire, un luogo comune che non è certo gradito alle comunità. Parla anche Emilio Fede, che è stato uno dei testimoni in questa vicenda, intervistato da Angela Frenda sul Corriere della Sera: su di me bugie e Silvio ora non mi invita più. Io sapevo che Ruby era minorenne, sono tutte balle, sai chi lo dice che sono balle? Non io, ma Berlusconi, Mora e la stessa Ruby. Basta, sono stufo, la verità è che dovrei rifiutarmi di rispondere a domande su questa storia. Inizia così l'intervista un'intervista di Emilio Fede che trovate a pagina 5 del Corriere. Io non sapevo che non avesse più di 18 anni, la prima volta in cui l'ho incontrata le ho chiesto chi è, chi l'ha portata, e lei: ma come, non si ricorda di me, ho partecipato al concorso a Leto Gianni. Allora mi sono ricordato vagamente che era tra le ragazze dell'evento in cui ero in una giuria in Sicilia. Tutto qui. Io ricordo che dimostrava almeno 28 anni, era corpulenta e alta. Cosa dovevo pensare? Che Berlusconi chissà quale progetti sessuali avesse? Non era una ragazza che potesse interessarmi, così Emilio Fede, che poi si lamenta. E comunque meritavo molto di più. La mia vera amarezza è che ora sono solo, mi sento solo, nessuno mi invita più, neanche Berlusconi mi invita più. Ma al di là di Silvio, per tutti gli altri cito Spadolini, la riconoscenza è solo attesa di nuovi favori. Ho imparato tardi la lezione. E tra l'altro dice ancora Emilio Fede: mi ha sostituito al TG4, mi è stato tolto cortesemente di mano al fine di migliorarlo. Evidentemente faccio tutti notare che l'unico TG che ieri ha citato il mio nome è stato proprio il TG4. Insomma, un Emilio Fede che si sente anche molto depresso, solo, abbandonato per questa vicenda. Vabbè, lasciamo la vicenda Ruby, che dire, ci sono gli strascichi sui giornali di quella che è stata l'incontro per fare spogliatoio all'abbazia di Spineto. Ora ci sono versioni più edulcorate, quella del Sole 24 Ore, che dice che in realtà da questo incontro di due giorni all'abbazia l'unica vera notizia, come racconta Barbara Fiammeri a pagina 4, l'unica vera notizia giunta dal ritiro della squadra di governo nell'abbazia di Spineto è che il Consiglio dei Ministri per la sospensione di IMU e rifinanziamento della cassa integrazione in deroga si svolgerà venerdì. Poca cosa, ecco. Ci sono versioni meno edulcorate, come quella di Libero, che dice e scrive: zero soldi, solo supercazzole dal ritiro all'abbazia di Spineto. Come dire, sono stati due giorni soprattutto improntati un po' alla litigiosità, anche se Letta dice: ho incontrato lealtà e franchezza in questi due giorni. Si è stabilito che cosa? Appunto che venerdì ci sarà il Consiglio dei Ministri su IMU e rifinanziamento della cassa integrazione, che ci sarà una sorta di programma dei 100 giorni in cui mettere appunto le questioni. Si è litigato un pochino sulla riforma elettorale. Ah, la riforma elettorale! Io su Twitter ho ripreso la conta, siamo alla seconda settimana decisiva per la riforma elettorale. C'è chi vuole il porcellum, pare come Berlusconi, che con questo sistema, racconta i giornali, può garantirsi la vittoria alla Camera. C'è chi il porcellum lo vorrebbe cambiare, tanto che Enrico Letta, secondo il Corriere della Sera, racconta a pagina 9, il Corriere della Sera ha proposto e ha pronta una leggina per cambiare il porcellum. Il piano di emergenza del Premier è questo, come racconta Monica Guerzoni: i ritocchi in uno o due articoli, come la soglia al 35-40% per il premio di maggioranza, una rete di protezione nel caso dovesse accadere l'imponderabile, una leggina di uno o due articoli per ritoccare il porcellum e stemperarne gli effetti distorsivi, e può darsi che si mantenga insomma una sorta di porcellum modificato. Ma insomma, hanno questionato anche sulla legge elettorale. Per il PD è un qualcosa di prioritario, per il PDL deve essere l'ultima delle riforme da mettere in lista. Insomma, spogliatoio sì, spogliatoio no, non è che ci sono stati grandi risultati da questo ritiro in abbazia o convento. Sull'IMU invece che succederà? Attenderemo venerdì, ma certo qualche anticipazione già c'è sul Sole 24 Ore di oggi, da cui ripartiremo dopo il traffico. E allora sull'IMU c'è uno speciale IMU sul Sole 24 Ore in attesa del Consiglio dei Ministri di venerdì. Anche le imprese nel pacchetto IMU si cercano coperture, questo è il titolo che trovate a pagina 5 del Sole ed è la notizia più interessante, cioè forse anche le imprese, i capannoni, rientrano nel provvedimento per il quale si vuole far saltare la rata dell'IMU di giugno. Marco Mobili: tecnici al lavoro sulla sospensione dell'IMU, e non solo per le famiglie ma anche per i beni strumentali delle imprese industriali agricole e dei lavoratori autonomi. L'appuntamento è fissato per venerdì. Enrico Letta ha precisato che il Consiglio dei Ministri si svolgerà sempre il venerdì mattina. Sul tavolo dei tecnici dell'economia si studiano differenti ipotesi, fa sapere il Sole, per intervenire sui capannoni, a partire dalla riduzione della base imponibile con la sterilizzazione dell'aumento da 60 a 65, pari all'8,3% del coefficiente di rivalutazione delle rendite catastali dei beni industriali. C'è poi la sospensione dell'aumento dello 0,3 dell'aliquota statale, che i comuni possono applicare portando il prelievo IMU sugli immobili di categoria D fino all'1,06%, incassando dunque l'intero extragettito. Non si esclude poi una sospensione generalizzata per tutte le imprese. Ovviamente questi sono tutti i lavori dei tecnici che entro venerdì devono mettere a punto soprattutto le coperture, perché se saltano tutte queste tasse da pagare bisogna trovare soldi in altro modo. Ecco il conto delle correzioni, sono sempre sul Sole 24 Ore, sono passato a pagina 7. Saverio Fossati e Gianni Trovati: dai 400 milioni per sterilizzare i moltiplicatori ai 2 miliardi per l'acconto prima casa. Sono i conti salati per le ambizioni del governo sull'IMU. Non solo dovunque si giri fatica a trovare coperture, ma le smagliature nei conti pubblici si spalancano inesorabili ogni volta che si ipotizza nuove agevolazioni. In tutto questo però il ministro dell'economia Saccomanni, diciamo, tranquillizza l'Europa e dice: non sforeremo i conti, soprattutto il rapporto deficit PIL del 3%, non avremo problemi, e quindi rassicura l'Europa, che ovviamente ci guarda con grande intensità in questo momento. Per tornare alla questione di soldi, ma legati più alla politica, tiene sempre banco la questione della diaria all'interno del Movimento 5 Stelle, e cioè il fatto che c'è una parte della diaria che non viene rendicontata e alcuni deputati e senatori del Movimento 5 Stelle vorrebbero non restituirla. Ieri ancora Beppe Grillo ha detto: chi si tiene la diaria si mette fuori da solo. Si mette fuori, insomma, è abbastanza chiara. Una deputata che in questo momento viene molto tenuta sott'occhio è Vincenza Labriola, che sul Secolo XIX, sul curriculum della Camera, ha scritto casalinga in questa breve intervista con Ilario Lombardo. È tornata da Taranto, dove dice di essere stata ingiuriata. Ecco, dice l'onorevole Vincenza Labriola del Movimento 5 Stelle: qualcuno ha detto che io voglio tenermi tutta la diaria, perché lei aveva votato per trattenere completamente effettivamente questa voce dello stipendio del parlamentare, e ora dice: ormai non posso più uscire con mio figlio di casa perché mi gridano dietro, ladra. Capito? Questo pensa la gente, per colpa loro è una situazione insostenibile, dice al Secolo XIX. Ho solo espresso le mie esigenze. Se voglio portare mio marito e mia figlia a Roma, devo chiedere il permesso? Devo subire la gogna? Nessuno di noi vuole rubare. Io ho chiesto solo di rispettarmi, di avere più fiducia, invece sono diffidenti, vogliono mostrare una divisione tra buoni e cattivi. Io non ci sto. Come andrà a finire questa vicenda? Chiede il Secolo XIX. Male. Vogliono fare pulizia, una lista di virtuosi e una blacklist, e chi non ci sta è fuori. Si terranno solo chi è disposto ad accettare e tacere, chi per esempio si vanta di aver pubblicato subito la propria busta paga e critica gli altri, ma io vado avanti secondo la mia coscienza. Insomma, questa vicenda rischia di creare qualche grattacapo a Beppe Grillo. Mentre Laura Boldrini, ancora una vicenda di un attacco, di un messaggio Twitter, ne dà conto il Giornale con Gianmarco Chiocci. Sapete che Laura Boldrini ha molto criticato anche gli insulti su Twitter, ha detto in questa intervista a Repubblica: vengo insultata, soprattutto insulti a sfondo sessuale, minacce di morte, minacce di violenza nei miei confronti. Contesta la Boldrini, trova la polizia a casa, è un nuovo caso di un utente emiliano di Twitter, Alessandro M, viene citato così: letteralmente terrorizzato da quanto è accaduto l'altro pomeriggio intorno alle 16, perché si è presentato dopo che lui ha scritto un tweet di questo genere. Popolo del tweet, inviamo un fotomontaggio osè al presidente Laura Boldrini, che ci denunci tutti come in Corea. Non sapendo che ci sono negli uffici del Parlamento 7 poliziotti della divisione crimini informatici che seguono tutto quello che viene detto anche su, su esponenti della Camera, in particolare Laura Boldrini, sono presentati subito a casa, hanno fatto rimuovere tutto con un decreto del giudice Luca Palamara, il PM Luca Palamara. E insomma, una vicenda che racconta il giornale: caccia l'uomo in rete, blogger Emiliano nei guai, gli agenti rimuovono dal suo computer un tweet ironico sul presidente Laura Boldrini. Lo trovate sul giornale a pagina 9 e ci fermiamo qui, il giornale radio.